Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama Progetto Swap e nasce a Bologna come proposta all'interno del piano strategico metropolitano. Abbiamo iniziato a parlarne ieri sera. Si tratta di un'operazione per riqualificare grandi edifici o aree urbane degradate. Pensiamo a vecchi quartieri di case popolari, per esempio, demolendo e ricostruendo secondo paradigmi moderni. In questi casi nasce il problema di dove alloggiare gli abitanti. E come abbiamo visto ieri, l'idea per quanto riguarda Bologna e il progetto Swap che possano andare a occupare temporaneamente i moltissimi appartamenti nuovi ma rimasti invenduti, più del 60% delle nuove costruzioni a Bologna. Gli abitanti vanno negli appartamenti vuoti, i mobili che arredavano la casa finiscono in un magazzino e dopo poco più di un anno sia i mobili che gli abitanti tornano al luogo di origine, dove trovano edifici completamente riqualificati ma anche una nuova realtà urbana. Infatti demolire e ricostruire consente di riprogettare completamente queste aree, per esempio dotandole di nuove infrastrutture per la mobilità come parcheggi sotterranei, prese per la ricarica dei veicoli elettrici o postazioni condominiali, diciamo così, di car sharing. Si possono creare nuove infrastrutture per la raccolta dei rifiuti come sistemi centralizzati per la raccolta differenziata, dove i rifiuti viaggiano sottoterra all'interno di appositi tubi. E poi il quartiere può essere dotato di nuove infrastrutture telematiche e così via. Tutto questo è il progetto Swap e questa sera continuiamo a parlarne con Paolo Ausiello, che è direttore tecnico della rete ad alta tecnologia dell'Emilia Romagna. Buonasera Ausiello, bentornato. Buonasera, buonasera. Ecco, io con lei Ausiello vorrei capire questa sera chi sono gli attori che servono per mettere in moto questo processo, che cosa hanno da guadagnarci e che cosa ci devono mettere in cambio. Allora, gli attori sono naturalmente i proprietari primi, che abitano questi senza edifici, dubbio. I costruttori che sono il motore per la ricostruzione e poi le amministrazioni pubbliche, magari pensando all'amministrazione pubblica comunale e a quella dell'amministrazione regionale, che hanno compiti diversi. Se andiamo a guardare i vantaggi in primo momento per i proprietari, è chiaro che partendo da un immobile di valore zero recuperano, o comunque molto basso, dai, adesso non poverini, comunque molto prossimo allo zero, aumentano o recuperano il valore dell'immobile, hanno poi in prospettiva un costo ridotto di esercizio per la riduzione dei consumi energetici, hanno potenzialmente una riduzione delle tasse, ad esempio quella sui rifiuti, migliora la loro qualità della vita perché in questo momento possono sfruttare sistemi di mobilità intelligente più efficienti. Per esempio, il classico anziano che usa pochissimo la macchina ma che ne ha bisogno, se la deve tenere come dire, a disposizione, invece lì potrebbe usufruire di un car sharing, le poche volte che ha bisogno dell'auto paga per quel poco che ha bisogno, no? Ecco, insomma, sono tanti modi con i quali il residente in qualche modo ha dei vantaggi ad accettare questa operazione. Il secondo attore è quello dei costruttori. Certo. Quali sono i loro vantaggi? Nella ricostruzione, senza aumentare l'impatto sul terreno, quindi senza costi del terreno, possono pensare di aumentare il volume dell'edificio del 20%. E questo sostanzialmente è una fonte di reddito per loro. Possono a questo punto anche utilizzare i garage come fonte di reddito, perché anche questo viene inserito in più, e possono utilizzare la quota di invenduto che loro hanno, ahimè è una realtà, per allocare questi gli inquilini durante il periodo della ricostruzione. Quindi anche per loro esiste una grossa possibilità, oltre a quella di sviluppare una tecnologia per la ricostruzione rapida e quindi passa con il tempo. E oltre insomma a far girare la macchina, perché poi queste grandi aziende di costruzione hanno proprio bisogno di far girare la macchina, o altrimenti a un certo punto vanno in crisi finanziaria, economica, molto pesante. Il terzo partecipe di questa operazione è l'amministrazione. Per quella comunale, cioè, è veramente importante la riqualificazione urbana, programmabile e tra l'altro con un miglioramento dell'appetibilità di certe aree che oggi veramente sono molto, molto, molto ridotte. Per l'amministrazione comunale, razionalizzare la raccolta dei rifiuti è per esempio una cosa molto importante. Per l'amministrazione regionale c'è un aspetto importante. Voi sapete che esiste il problema della riduzione della CO2 e un accordo formato a livello nazionale prevede la riduzione del 20% proprio della CO2. Bene, il fatto che un impegno nazionale sia oggi ripartito sulle regioni impone alle regioni di pagare per sostenere questo impegno. Ecco, questo sistema di riqualificazione che riduce i consumi, riduce l'impatto sulla CO2 è una forma di risparmio per l'amministrazione e che quindi può contribuire con questo risparmio o con questa spesa evitata al finanziamento dell'opportunità. Insomma, ha degli obiettivi, sono obiettivi fissati dalla legge, ovvero il contributo della regione al raggiungimento degli obiettivi nazionali, quelli dati dall'Europa, al 20-20-20 ed altri ancora. E quindi dice l'amministrazione ha tutte le motivazioni per contribuire a questo processo. Vorrei anche capire che cosa ci deve mettere però l'amministrazione. Dunque, l'amministrazione deve avere un ruolo, deve imparare ad avere un ruolo di pivot in questa operazione, deve convincere i proprietari, deve partecipare all'operazione di convincimento, deve trovare e deve facilitare i sistemi di finanziamento per questa operazione, perché sicuramente il valore degli appartamenti aumenta, ma non sarà, come dire, automaticamente pagato dagli altri partecipanti. E quindi bisogna preparare gli strumenti finanziari, soprattutto deve attivarsi per risolvere il problema dei contributi, diciamo, degli interessi fiscali nell'operazione di demolizione e ricostruzione che presentano delle lacune. È l'amministrazione pubblica che può stabilire delle condizioni fiscali convenienti e nessun altro può fare questa operazione. Parlavamo dello sconto, per esempio, sulle tasse legate alla raccolta dei rifiuti, ma anche all'aumento di cubatura, è qualcosa che può stabilire solo un'amministrazione locale, in questo caso il comune. Sì. Senta, quali sono secondo voi le minacce, che cosa può far fallire questo tipo di operazioni? No, sostanzialmente è il discorso finanziario che va assolutamente approfondito, perché molti dei soggetti che abitano queste zone abitative da riqualificare sono dei soggetti deboli, che non hanno una capacità di autofinanziamento. Di investimento. Esattamente. Anche un soggetto debole potrà alla fine risparmiare sulla tassa, sulla bolletta della luce o sulla bolletta dell'energia elettrica, però non potrà farlo se non è finanziato il suo passaggio a questa nuova abitazione. Il coordinamento di questi strumenti finanziari è la difficoltà maggiore, sostanzialmente è una cosa che si potrebbe veramente fare con la coscienza da parte dell'amministrazione, che è lei il motore principale. Grazie ingegner Paolo Augello. La saluto, arrivederla. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.